Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. Siamo qui con Möbius. Ciao Simona. Ciao Federico, buonasera a tutti e tutte. Allora incominceremo con la psicanalisi, con uno psicanalista irriverente, lui che si definisce così. E poi continuiamo, parliamo di alimentazione e di un laser antifrode per controlli più rapidi. E infine la sostenibilità, siamo tutti d'accordo, ci vuole però con delle robe un po' carine, un po' belle, non brutte. Via! A me qui viene un dubbio, perché se uno psicanalista scrive un libro Pensieri di uno psicanalista irriverente, guida per analisti e pazienti curiosi, mi domando, non viene fuori un cortocircuito? Perché parla anche ai pazienti, come psicanalista non ci dovrebbe... Che si spaccia per irriverente. Che si spaccia anche per irriverente. Antonino Ferro è qui con noi questa sera. Buonasera Ferro. Oh, buonasera. Buonasera. Sì. Ferro, lei nel libro ci fa praticamente sbirciare, curiosare dentro una stanza di analisi per capire appunto che cosa succede lì dentro, su un lettino. Sì, e credo che sia utile che un paziente sappia quello che avviene nella stanza d'analisi, perché non c'è nulla né di segreto, né di magico, né di esoterico, e credo che poi il tipo di relazione con i pazienti sia molto cambiata. Certo. Da quando c'era lo psicanalista inteso, immaginato come tutto sapere, e invece credo che l'analista di oggi consideri i pazienti proprio come i migliori colleghi che si possono avere. Dunque, Pensieri dello psicanalista irriverente, Raffaello Cortina, editori. Ecco, lei dice appunto è molto cambiato questo lavoro. Già la psicanalisi stretta a Freud aveva subito diversi cambiamenti, però lei dice che ormai bisogna proprio instaurare un rapporto diverso. Dice anche una cosa che ci ha stupito molto, cioè bisogna che la seduta sia un momento divertente, empatico, che fa piacere vivere con il paziente. Io le domando, però ci sono dei casi in cui invece uno arriva con problemi forti, è possibile lo stesso? Ma io penso una cosa, che in psicoanalisi si è sempre parlato di dolore, di sofferenza del paziente, ma anche dell'analista. Credo sia importante adesso introdurre anche l'aspetto, diciamo, del piacere e del fare l'analisi, perché in fondo è sempre un sollievo quando anche con tematiche dolorose si riesce così a raccontarle, a trasformarle anche in immagini, in storie, ci si alleggerisce molto, e credo che bisognerebbe dare al paziente sempre un buon motivo per tornare la seduta successiva, e credo che un buon motivo per tornare sia anche quello che la seduta possa dare, pur incontrando il dolore e la sofferenza, possa dare sollievo e, perché no, talvolta anche piacere. Ecco, però appunto torniamo sul ruolo dell'analista. Siamo abituati all'idea dell'analista che rimane in silenzio seduta dopo seduta, invece lei sottolinea il fatto che sia proprio la relazione tra analista e paziente a guarire. Quindi in che modo si relaziona l'analista con la persona sdraiata su quel lettino? Chiacchierando molto, sembra di capire da quello che lei scrive. Io direi il massimo di silenzio che io riesco a tollerare credo che sia un paio di minuti, già sono tanti 2 minuti di silenzio. E quello fa appartiene un po' alla storia della psicanalisi, lo psicoanalista, come dire, neutrale, che non risponde alle domande, silente. E mi sembra che già in quel modo si stauri un brutto modo per partire in una relazione che dovrebbe essere trasformativa, che dovrebbe aiutare, come dire, il paziente a sentirsi, diciamo, capito e sollevato. Per cui credo che l'analista, senza svelare troppo di se stesso, ma che sia uno dei due partecipi della coppia analitica, e che guai se un analista rimanesse silenzioso. Questo, diciamolo, è un enorme cambiamento, perché tutte le testimonianze di pazienti, soprattutto all'inizio della terapia, erano del tipo: ma io non mi dice niente, sta lì fermo, mi sento in imbarazzo. E però si diceva che questo in realtà era il modo per poi tirar fuori le cose, come quello, lei ne fa accenno al libro, la famosa storia del pagare, no? L'analista, lei poi nel libro diceva, beh, insomma, è il mio lavoro, devono arrivare dei soldi, ma lei dice, se fossi ricco non farei pagare, non è vero che deve essere pagato, così io sento che lui è a mia disposizione. Sì. Il pagamento all'analista deve essere pagato perché deve campare, deve vivere sostanzialmente. Un lavoro, e... sì, certo. Che altrimenti dovrebbe fare un altro lavoro per guadagnare. Forse. Ma non è simbolico. O essere nato ricco. Sì, appunto, non credo che sia quella la cosa importante. E credo che il paziente in fondo dimostra il suo bisogno, la sua dipendenza, già con l'andare in seduta, col farsi talvolta anche tanti chilometri di strada, con l'essere puntuale, con la sua frequenza, col suo coinvolgimento, cioè anche quello qualcosa conta, ma sinceramente conta molto poco. Senta, e poi cosa ne pensa dei tre pilastri su cui si fonda la psicanalisi freudiana? Insomma, che fine fanno, che ruolo hanno adesso l'inconscio, la sessualità e il sogno? Devo dire, devo svelarle un segreto, che questo qui è stato la sessualità, l'inconscio e il sogno, il tema del congresso della Società Psicoanalitica Internazionale a Chicago qualche anno fa, e che è un titolo che ho scelto io, come dire, riassumendo che questi mi sembravano ad oggi i tre pilastri dei quali non si può fare a meno proprio. Anche se negli anni dal punto di vista clinico, nel tempo la psicanalisi è cambiata molto, però su questi rimangono dei punti fermi? Questi rimangono assolutamente a tutt'oggi dei punti fondamentali. Da gestire diversamente. Che diversamente, pensavo che anche il sogno, mentre il sogno prima era considerato soltanto quello della notte, per esempio, oggi si considera anche che c'è un sogno che si svolge sempre, anche durante il giorno, e anche tutta la seduta può essere considerata come un sogno, come un racconto. Ci chiarisca una cosa, perché il sogno è come un apriscatole per accedere all'inconscio? Il sogno, come veniva considerato una volta, era proprio questo apriscatole che doveva in qualche modo penetrare, rompere la scatoletta per far uscire fuori il tonno. E oggi credo che sia un po' diverso, perché la concezione dell'inconscio è molto cambiata. Una volta c'era quest'idea proprio della scatoletta da cui tirare fuori i contenuti. Oggi l'inconscio da molti, per fortuna, è considerato in modo diverso, come qualche cosa che viene costruito e trasformato continuamente nella trasformazione narrativa che viene fatto tra analista e paziente, e quindi l'immagine potrebbe essere non più della scatoletta che viene, come dire, tagliata per far venire fuori il tonno, ma addirittura il contrario, cioè non riempire delle scatolette vuote costruendo assieme il tonno che verrà messo là dentro. Belle metafore. Le chiedo una cosa, ma se il paziente mente? Guardi, nella vita una persona che mente credo che sia la peggiore tortura alla quale si possa essere esposti. In analisi sarebbe un sogno se qualcuno invece mentisse, perché costruisce un mondo nuovo, alternativo, nel quale sicuramente dirà molte più verità di quelle che non immagini di dire. Quindi diventa funzionale. Quindi diventa super funzionale. E allora questi sono alcuni dei pensieri di uno psicanalista irriverente, gli altri li trovate nel libro pubblicato da Raffaello Cortina Editore, una guida per analisti e pazienti curiosi. Grazie, buonasera Antonino Ferro. E grazie, buonasera. Buonasera e buon lavoro. Sentiamo adesso cosa ci dicono sul traffico nelle nostre strade. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. E adesso, Federico, entriamo nel laboratorio di diagnostica e metrologia laser del centro di Frascati dell'Enea, perché ci ha incuriosito una tecnologia che stanno mettendo a punto per individuare sostanze tossiche o comunque non dichiarate in etichetta nel cibo che nel acquistiamo. Cibo. Sì. E lo facciamo con Adriana Puiu, ricercatrice appunto di questo laboratorio. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Si tratta di un laser antifrode, come funziona? Parliamo in realtà di un sensore laser, un sistema più complesso che fa uso di una sorgente laser. È stato messo a punto per rivelare adulteranti alimentari e si basa sulla spettroscopia laser. Proviamo a vedere come può funzionare. C'è un raggio laser che percorre del cibo. no? È un raggio laser che sì. Viene mandato su, per esempio, prendiamo della frutta. E il segnale che viene emesso, la radiazione che torna indietro dalla frutta, no? Viene analizzata da uno spettrometro. Diciamo, parole semplici, sì. Parole semplici, certo. Sì. Poi ricordiamo che questo è un lavoro in corso di ricerca, quindi ci sono anche problemi di brevettazione. Però lo spettrometro prende la luce che torna indietro e, come fa sempre questo strumento, ricordiamolo, è quello che si usa per vedere che tipo di elementi ci sono sulle stelle anche, no? E allora vede che cosa in questa luce che gli torna indietro? Se c'è qualche sostanza che non dovrebbe esserci? Il rivelatore ci fa vedere uno spettro di assorbimento, di emissione della sostanza che andiamo a cercare. Lo spettro in pratica è l'impronta digitale di quella molecola. E quindi questo consente, in parole ancora più povere, di capire se in quel campione ci sono delle sostanze tossiche o che comunque non dovrebbero esserci. Esattamente. Quindi se nello spettro che il nostro rivelatore registra otteniamo le impronte digitali di quella molecola specifica, allora possiamo dire che quella molecola è presente nel campione alimentare che abbiamo analizzato. La frutta piuttosto che nella carne, su tutti i cibi. Certo, questo può andare su tutti i cibi. Infatti la forza di questo sistema è proprio quella di poter analizzare più molecole, più sostanze tossiche. Infatti abbiamo analizzato la melamina nel latte in polvere, l'istamina nei prodotti ittici. Tutto è partito proprio dall'istamina, perché ci racconti? Allora, dalla nostra collaborazione con l'Istituto Superiore della Sanità è uscita fuori la necessità di sviluppare un sistema che fosse in grado di rilevare proprio l'istamina, perché attualmente non ci sono in commercio sistemi in grado di rivelare questa molecola in tempo reale. Attualmente si prelieva il campione, si porta in laboratorio specializzato di analisi chimiche, dove va elaborato, ne si fa reagire con diversi reagenti chimici. Tutti questi passi richiedono un tempo tecnico abbastanza lungo, che può arrivare anche a una giornata intera di lavoro. Quindi è qua che entra in gioco la vostra tecnica, perché consente di dare una risposta immediata nel tempo, esatto, di pochi secondi o al massimo pochi minuti. Esatto. E ricordiamo che l'istamina è una molecola tossica che si sviluppa, per esempio, nel pesce nel momento in cui non è stato conservato a dovere. Non è stato conservato. E l'obiettivo, naturalmente, adesso non ci siete ancora, ma è di avere poi un'apparecchiatura portatile. Al momento è trasportabile, nel senso che lo strumento è un prototipo di laboratorio. Può essere trasportato su un carrello. Stiamo già facendo dei test per poter sviluppare uno sistema da mettere in una valigetta, per esempio. Disposizione poi di chi? Qual è l'obiettivo? Per esempio dalle industrie e catene di distribuzione che puntano a mantenere un elevato standard di qualità. Quindi per un uso industriale il prototipo di laboratorio va bene. Per uso sul campo, per esempio da dare agli organi di controllo come i NAS dei carabinieri, è più utile un sistema più compatto, quindi tipo una valigetta. Buon lavoro, buona ricerca, attendiamo il vostro apparecchio utilissimo. Bene, grazie allora Adriana Puiu. Grazie, buona giornata. Material Connection, realtà italiana che fa parte di una rete però mondiale che si occupa dell'utilizzo di nuovi materiali ovunque e in particolare con scopi di sostenibilità. Emilio Genovesi e Anna Pellizzari, che sono di Material Connection, hanno scritto un libro e adesso raccontiamo che cosa c'è in questo libro. Ho qui davanti a me una copertina con tanto di libro ovviamente, Neomateriali nell'economia circolare a cura di Anna Pellizzari ed Emilio Genovesi, eppure loro sono qua con me. Incominciamo con te, Emilio. Allora, il libro Neomateriali nell'economia circolare ha come sfondo totale questo scenario di cui abbiamo anche già parlato altre volte qui a Mebius, dell'economia circolare, quindi questo grande impegno nel riuscire a maneggiare produzioni e materiali in modo che non ci sia questa quantità impressionante di roba che buttiamo via, ma invece alla fine del ciclo di vita di un prodotto, insomma, si riesce a reimmetterlo nella produzione, quindi a non continuare a costruire, a produrre roba nuova, e poi si declina anche in molte altre cose. Però io ti ho sentito in alcuni tuoi interventi sottolineare un aspetto importante, e cioè se noi pensiamo di fare un riciclo grezzo, un riciclo che ha come solo obiettivo quello che non buttiamo via, questa grande prospettiva fallisce. Esatto. Quello che è interessante delle tesi che avanziamo nel libro è dire che oggi, grazie allo sviluppo della tecnologia, siamo di fronte a quello che in gergo gli scienziati chiamano un cambio di paradigma. Ma fondamentalmente cosa vuol dire cambio di paradigma? Vuol dire che tutti noi, io come gli ascoltatori eccetera, quando sentivano parlare di economia circolare, di riuso, avevano sì un sussulto di eticità favorevole, dicendo certo non bisogna sprecare, ma immediatamente il pensiero poi andava al fatto che tutte queste cose si fanno perché si devono fare, ma alla fine un'economia che nasce semplicemente dal recupero, da un lato riecheggia di quella famosa decrescita felice di cui si parla, che poi felice non è mai, almeno non si conoscono periodi della storia di decrescita che siano stati felici, magari noi saremmo gli innovatori, ma sono stati semmai obbligati. E dall'altro c'è questo aspetto che ha sempre accompagnato anche il tema della sostenibilità, che se una cosa è sostenibile o è brutta o non funziona, e quindi noi nella vita la sopportiamo semmai perché dobbiamo farlo, ma non ci piace. Questo per il materiale è drammatico, perché se un materiale è brutto o comunque non funziona, non sarà mai usato dai designer che vogliono il bello e la performance, non piacerà ai consumatori, eccetera eccetera. Oggi invece siamo di fronte al fatto che nei diversi campi della cosiddetta circolarità si possono fare delle cose che potranno essere belle e performanti. Si possono fare sia ex novo, perché oggi tutto il tema dei biomateriali esce dalla sperimentazione, e quindi incominciano le famose bioplastiche a avere tutte le caratteristiche di bellezza e flessibilità che il mondo della plastica ci ha regalato 30 anni fa. Le filiere di riciclo tradizionali, penso al legno, all'alluminio, eccetera, stanno incominciando a diventare serie. Pochi sanno che il 40% dei pile che ci sono in giro sono fatti con pieticcio e materiale bottiglie riciclato. Noi pensiamo a chissà che cosa, quindi che ce l'abbiamo già nella vita quotidiana, e che anche tutto il famoso pattume, proprio il peggiore che buttiamo in discarica e tanto crea problemi, oggi può diventare qualcosa dal quale invece può uscire delle cose buone, insomma. Quindi certo, insomma, l'idea di avere sedie grigie, poltrone grigie che sembrano sassi. Quella carta che era sempre quel verdino un po' schifoso, che tu dici ma io vorrei una bella carta bianca, ma... e no, allora inquini, quindi dovevi scrivere su quella specie di carta igienica. Ecco. Oggi invece ci sono, adesso non faccio nome di aziende, ma c'è un'azienda italiana che fa le carte igieniche strepitose. Insomma. Certo. Quindi importantissimo, un po' di sofferenza magari dovrà restare su certe cose molto importanti, però insomma teniamola al 10%. Anna Pellizzari, invece, tu hai fatto degli esempi di materiali, non si può nemmeno parlare di materiali, sono degli aggregati orrendi che mai più uno pensa che potrebbero essere riutilizzati e recuperati, e invece anche qui c'è una nuova frontiera, oggi si può. Sì, ci sono dei materiali che, a cui uno mai immaginerebbe poter affidare una seconda vita. Uno degli esempi che sono citati nel libro, che a me piace moltissimo, è un materiale che è una pavimentazione che deriva in gran parte come contenuto dalle terre di spazzamento strade, in particolare sono le terre di Milano, se a tutti i milanesi sappiate, che... Terre di spazzamento, quando noi vediamo l'omino con la scopa che butta della robaccia vicino a una spazzola di un camioncino verde, proprio quelle robe lì, si intende? Esatto, proprio quelle cose lì. Vengono raccolte dagli appositi camioncini verdi, portate in un luogo dove vengono processate, separate, per cui la parte, diciamo, che sono riciclabili in filiere tradizionali, come possono essere i metalli piuttosto che anche la carta o le parti più... Le foglie, per esempio, finiscono da un'altra parte e rimane alla fine una graniglia un po' polverosa che viene purificata, ripulita di tutte quante le possibili impurità e le potenziali inquinanti, e diventa sostanzialmente una graniglia inerte che viene utilizzata da questa azienda della provincia di Verona che realizza queste pavimentazioni che ne contengono quasi tra il 60 e il 70%, quindi il resto è un aggregante in resina, e sono delle pavimentazioni molto belle che con una loro irregolarità che in qualche modo ricordano le... No, ma sono molto, molto carine. Non orrende. No, assolutamente, si diceva prima che questi materiali devono essere anche belli, e la cosa interessante è che questi inerti vengono già utilizzati per ad esempio riempimenti stradali, e in questo caso però si ha un upgrade del valore del materiale, per cui si parte da un materiale che ha valore zero e si finisce con un materiale che invece ha un valore anche in termini percepiti molto elevato, perché è bello, insomma, materiale valido. Neomateriali nell'economia circolare, Edizioni Ambiente. Gli autori sono Anna Pellizzari ed Emilio Genovesi, che saluto, grazie di essere stati a Mebius. Grazie anche a voi. Grazie a tutti. Sei d'accordo anche tu, un bel piatto che pesa 2 chili di cemento non sarà sostenibile, ma una schifezza. Come fai a mangiare per 150 grammi di spaghetti? Esatto, ti incupisci. Buona settimana a tutti. E a tutti.